I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La revisione della spesa pubblica è stato il mantra di ogni manovra di bilancio almeno dal 2011 in poi. Un po' come lo spread, anche la spending review è entrata nella vita quotidiana di tutti noi. Abbiamo visto all'opera svariati commissari chiamati a una missione impossibile, perché le strategie per tagliare le uscite dello Stato hanno funzionato davvero poco. L'anno scorso la spesa corrente ha toccato il livello massimo di 705 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2011, come mostra oggi l'inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore. Certo, non tutto è andato male. Per esempio, è diminuita la spesa per il personale. In effetti i dipendenti pubblici lo sanno bene, visto che i loro stipendi sono fermi da almeno 7-8 anni. Sul fronte della spesa complessiva abbiamo poi avuto una grande occasione grazie alla riduzione del costo per finanziare il debito pubblico, con un calo del 13% della spesa per interessi. Sono circa 10 miliardi di euro in meno tra il 2016 e il 2011. Ma le spese correnti, le spese per gli acquisti, hanno continuato imperterrite a crescere, con un aggravante: tagli e risparmi hanno colpito duro gli investimenti, che sono calati del 22%. Ma questo era esattamente quello che non doveva accadere, perché è giusto tagliare la spesa, ma è sbagliato tagliare la spesa buona, com'è quella per investimenti, perché è proprio questa la spesa che produce la ricchezza futura. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Ci sono due elementi che meritano attenzione nella relazione annuale tenuta oggi da Giuseppe Vegas, presidente della Consob, organo di controllo sui mercati finanziari. Il primo elemento suona come un monito al governo e alla politica, perché, ha detto Vegas, stanno per finire i tempi del sostegno monetario garantito dallo scudo della BCE, una lunga fase di tassi bassi, spesso sotto zero, che doveva essere impiegata per fare le riforme e recuperare terreno sul piano della competitività. Purtroppo il nostro paese ha sprecato questa opportunità. Ora, seppur lentamente, andiamo verso un nuovo scenario nel quale non potremo più contare sull'aiuto della BCE, e per questo, secondo Vegas, è decisivo approfittare di questi ultimi mesi per realizzare le riforme annunciate ma mai attuate. Vegas è poi tornato sul tema del bail-in bancario, ovvero il coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e risparmiatori nel fallimento di una banca. Il bilancio del primo anno di attuazione del bail-in, ha detto Vegas, non può dirsi positivo per due motivi. Primo, perché non si è valutato bene l'impatto delle regole sui piccoli risparmiatori. Poi, perché è stata infelice la scelta di adottare la nuova disciplina con effetto retroattivo. Il messaggio di Vegas però è molto chiaro: questa normativa va corretta quanto prima, e bisogna farlo introducendo una soglia di salvaguardia da 100.000 euro anche per gli obbligazionisti, esattamente come già previsto per i correntisti. È un passo importante, vedremo se l'Europa saprà ascoltare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.